5 e. Ascolta e rispondi. Quando invitate Maria? La invitiamo domani. Dove vedi la tua amica? La vedo all'università. A che ora incontri la professoressa? La incontro alle 9. Quando guardi la TV? La guardo dopo cena. Dove ascolti la radio? La ascolto in macchina. Come passi di solito la domenica? La passo in famiglia.